perfetto notte estate. Benvenuti, sono alle 18:28 minuti. Questa puntata è dedicata in gran parte all'inaugurazione, alla cerimonia di inaugurazione del Ponte San Giorgio. Tutto parte alle 11:41 del 14 agosto di 2 anni fa. Crollava una parte del Ponte Morandi che dal 1967 faceva parte della città di Genova. 43 persone sono morte, centinaia sono stati feriti, centinaia gli sfollati. Siamo arrivati al 3 agosto 2020 e dopo quasi 2 anni viene inaugurato questo ponte che, come dicevo, si chiama Ponte San Giorgio. Da Genova c'è Andrea Ferro. Andrea, buonasera. Buonasera Enrico, buonasera agli ascoltatori e buonasera, vi parlo dal Ponte Genova San Giorgio, vi parlo dalla carreggiata direzione Genova, dove è stata allestita una sorta di tribuna stampa dalla quale seguiremo l'inaugurazione, la cerimonia di inaugurazione del ponte. È atteso a istanti ormai il Presidente della Repubblica Mattarella, è già arrivato il Presidente del Consiglio Conte, la Ministra De Micheli, c'è mezzo governo, chiaramente ci sono le autorità locali a partire dal Sindaco e Commissario straordinario Marco Bucci, che appunto commissario straordinario che ha avuto il compito, la delega da parte del governo di compiere quello che da alcuni è stato definito una specie di miracolo, cioè realizzare questo ponte in 15 mesi, tanto è stato infatti il tempo necessario partendo da zero, un'opera che evidentemente sotto questo profilo è eccezionale per i tempi medi di realizzazione delle opere pubbliche in Italia, ma oggi il sentimento di soddisfazione per questa impresa si abbina, potremmo dire in bilico, con il senso doloroso della tragedia, di quello che è avvenuto, come dicevi, poco meno di 2 anni fa, il 14 agosto 2018, in una giornata di pioggia torrenziale, sembrava che venisse giù il mondo, invece a Genova venne giù il ponte, una notizia che inizialmente non fu neppure creduta vera, così come circolava nelle redazioni, invece era tutto tragicamente vero, 43 le vittime, appunto in forza di questo sentimento oggi la città è in qualche modo in bilico tra, come dicevo, la soddisfazione per la realizzazione e dall'altra appunto il rispetto di quelle 43 vite spezzate una mattina di piena estate alla vigilia di Ferragosto. Piove su Genova, o meglio in questo istante ha smesso proprio da poco di piovere e le condizioni meteo in qualche modo condizionano, perdonate la ripetizione, il programma di questa sera. Ci sarà a partire dalle 18:30, ma evidentemente siamo un filino in ritardo, la celebrazione con gli interventi a partire dal commissario e sindaco Bucci per arrivare poi al Presidente del Consiglio, e sono previste anche altre, diciamo così, manifestazioni collaterali, tra le quali il volo delle frecce tricolori, un volo che però resta in forza fino all'ultimo, alla luce appunto dell'evoluzione meteo, un'evoluzione meteo davvero particolare, quasi che fosse stato deciso un copione anche dal cielo per rendere eccezionale questa giornata. Fino a poco fa piogge intermittenti, a tratti anche molto forte, poi un lampo di sole dalla collina di Coronata e poi addirittura un arcobaleno a disegnare appunto questi colori sopra la collina opposta. Ora sul mare il cielo pare rasserenarsi e questa è anche una cronaca meteorologica, perché come dicevo sulla base dell'evoluzione meteo dipenderà lo svolgimento di questa manifestazione, di questa cerimonia che segna appunto la ricostruzione del ponte meno di 2 anni dopo dal crollo del ponte Morandi che, come ripetiamo e va ripetuto, provocò la morte di 43 persone. Noi ci dilunghiamo in questo momento nella cronaca dell'attesa, era appunto atteso qui alle 18:30 il Presidente della Repubblica Mattarella proveniente dalla prefettura, dove ha incontrato una delegazione dei parenti delle vittime, la maggior parte dei quali ha deciso di non partecipare a questa cerimonia. Qualcuno c'è, diciamo a titolo personale, la maggior parte ha detto che sostanzialmente non se la sentiva di partecipare a quella che potrebbe essere anche intesa come una festa, ma una festa non può essere dopo quello che appunto è accaduto. Ripeto, Mattarella ha incontrato privatamente i parenti delle vittime in prefettura e evidentemente è terminato da poco questo incontro, ma non da qualche momento è atteso appunto l'arrivo del Presidente. Attenzione, mi fanno cenno che il corteo presidenziale sta uscendo, lo vedo dalla galleria Coronata, per intenderci la carreggiata in direzione Genova, da ponente verso Genova Ovest, vediamo i lampeggianti del corteo presidenziale, c'è il pulmino della scorta, sono 8 auto che si stanno avvicinando al centro praticamente del ponte, poi aggiunti appunto a quella, all'altezza della passiera rossa scenderà il Presidente della Repubblica Mattarella, che sfila in questo momento accanto a noi con la Maserati che va a posteggiarsi all'altezza appunto dell'inizio della passiera, a breve lo vedremo scendere, quindi questione di qualche istante, e anche il Presidente della Repubblica Mattarella parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del Ponte Morandi. Andrea, hanno aperto la portiera in questo istante, lo vediamo in questo momento. Allora, in attesa che il Presidente della Repubblica raggiunga il palco dove parlerà, diciamo subito una cosa, un'informazione molto importante, visto che stiamo vivendo anche settimane di forti disagi sulle strade liguri. Il ponte non riaprirà subito nelle prossime ore, giusto? No, riaprirà dopodomani al mattino, non è stato ancora definito l'orario, anche perché si tratterà di smobilitare quello che è stato allestito appunto in queste ore per questa cerimonia. È stato allestito un gazebo all'interno del quale c'è una parte degli ospiti e poi appunto ci sono le autorità che a breve inizieranno i discorsi. Quindi ripetiamo, il ponte aprirà il 5 agosto in una situazione, come dicevi, particolare per la viabilità in Liguria a seguito degli interventi per la messa in sicurezza delle gallerie. Come raccontiamo ormai da due mesi nei GR e nei programmi, è in scena il caos autostrade con tempi di percorrenza infiniti. Sentite in sottofondo il presentatore appunto che introduce l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che viene accolto in questo istante da un applauso. Sì, a questo punto attendiamo il Presidente della Repubblica, che dovrebbe parlare immediatamente, e ve lo facciamo anche ascoltare, sta raggiungendo. Non credo che inizierà a parlare. Okay, sentiamo sarà il Sindaco Bucci. E c'è okay. l'inno nazionale. Seguendo la cerimonia inaugurale del nuovo ponte San Giorgio a Genova, è collegato con noi Ennio Guerci, tra i portavoce dell'associazione Sfollati. Buonasera Guerci. Buonasera. Voi avete scelto, così come i familiari delle vittime, di non partecipare a questo momento. Sì, nessuna polemica, non partecipiamo perché noi riteniamo questo momento comunque solo una tappa. Il lavoro che è stato fatto merita un plauso, hanno lavorato giorno e notte, non hanno visto feste, hanno realizzato un'opera indubbiamente di grandissimo pregio, però per noi, per il rispetto nei confronti delle vittime, anche perché sappiamo che questa è soltanto una fase della conclusione di questa vicenda, perché riteniamo che la conclusione vera sia quando l'intero quartiere sarà riqualificato con la costruzione del parco, con la risistemazione di tutte le vie e quindi di tutta la zona sottostante il ponte. Quest'opera sicuramente aiuterà Genova e la Liguria a ritornare a una viabilità decente, però ripeto, questa zona che ha tanto sofferto merita una riqualificazione seria. Ci dice solo brevemente se tutte le persone sfollate sono entrate in qualche modo in una casa, considerandola una sistemazione definitiva o no? Sì, diciamo che la fase di risistemazione la possiamo ritenere conclusa. Chi è rimasto nelle case che aveva procurato il comune, chi si è ricomprato un alloggio, chi è rimasto più o meno nella stessa zona, chi si è trasferito in altre zone della città, ma direi che questa fase è conclusa. Ci sono ancora problemi ovviamente di carattere personale, emotivo, e oggi è una giornata che indubbiamente segna questi aspetti, però dal punto di vista fisico e materiale diciamo che siamo tutti, abbiamo risolto tutti questo problema. Guerci, grazie per essere stato con noi. Prego, buonasera. Grazie ancora. Adesso ci torniamo a collegare con Genova. In questo momento vengono citati i nomi delle 43 persone che sono morte nella tragedia del 14 agosto del 2018. Andrea Ferro. Sì, eccoci, è un momento di commozione, quindi parlo anche a voce più bassa, perché come dicevi viene letto l'elenco delle 43 vittime del ponte, nome, cognome e luogo d'origine, siamo tutti in piedi, c'è chi ha portato la mano al petto, c'è un momento di particolare commozione, come potete intendere, è praticamente questo rosario di nomi che rende il senso doloroso della tragedia, quel ponte spezzato il 14 agosto 2018, mentre l'Italia in qualche modo andava in vacanza sotto un cielo che scaricava pioggia, fulmini, sotto un scenario meteorologico davvero da paura, e al punto che addirittura in quelle ore qualcuno pensò che potesse essere stato anche un fulmine a provocare il crollo. Chiaramente non è così, e sarà poi l'inchiesta a stabilire le cause del crollo. Ripeto, si stanno leggendo i nomi delle 43 vittime, sentirete in sottofondo la voce del presentatore che sta terminando in questo istante la lettura delle 43 vittime, e ora il silenzio. Spengono le note del silenzio, si spengono le note del silenzio, e ora c'è un minuto di raccoglimento. Io ti cederei la linea. Grazie Andrea. Queste erano le note della banda della Polizia di Stato, presumo forse una banda mista Polizia Carabinieri, almeno dalle immagini che vedo, poi magari Andrea ci dirà di più, sarà più preciso. Maurizio Caprino, che per il Sole 24 Ore ha seguito, segue diciamo tutto il dossier autostradale da molti anni, ma molto da vicino anche quello che è successo, con tutto quello che è avvenuto dopo, sia dal punto di vista delle inchieste, sia dal punto di vista politico, finanziario. Maurizio, buonasera, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Si parla molto del modello Genova. Molti politici ripetono che questo modello potrebbe essere utilizzato per mettere in sesto molte opere pubbliche in Italia. Che cosa ne pensi? Dico che è uno slogan, uno dei tanti slogan di cui si nutre chiunque comunichi in questo paese. Il compito dei giornalisti è dire alla gente di non fidarsi degli slogan, e questo mi sembra un esempio calzante, perché il modello Genova cos'è? È una ricostruzione fatta intanto in una situazione assolutamente eccezionale come quella, insomma, di un crollo di un ponte di primaria importanza per la vivibilità nazionale e internazionale, quindi già questo dà la misura di quanto sia enorme quello che è accaduto, e quindi di cosa ci voleva, di quanti, che ci voleva proprio qualcosa di eccezionale, ma veramente eccezionale. E poi il risultato lo si è visto nel senso che questo ponte è costato 202 milioni, che sono più del doppio di quello che un'opera normale in condizioni normali viene a costare. Ora, va bene che si è costruito molto in fretta, quindi si è dovuto lavorare giorno e notte, Natale, Pasqua, Ferragosto, assolutamente, quindi avere anche uno spiegamento di forze eccezionale, vincere la sfida del Covid, tutto quello che vogliamo, però un'altra parte di questo sovraccosto è dovuto a scelte che francamente non sono ben comprensibili, tant'è che hanno subito qualche rilievo anche da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Parlo per esempio dei piloni, che sono 18 invece dei 10 che erano stimati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Parlo di altri apparati, anche altre sono stati fatti tra l'altro anche errori progettuali, come i lampioni troppo alti. Maurizio, ti interrompo perché sentiamo il primo che sta parlando a questa cerimonia, il sindaco nonché commissario alla ricostruzione, Bucci. Fare quello che avevamo promesso 18 mesi fa, ne siamo assolutamente orgogliosi, siamo contenti, è un bel momento per Genova. Ho tre discorsi importanti che vorrei fare a tutti voi, brevemente. La prima cosa che mi viene in mente è un pensiero alle 43 vittime, un pensiero soprattutto alle famiglie delle 43 vittime. Loro sono quelle che soffrono di più, sono quelle che noi abbiamo cercato di accompagnare come amministrazione il più possibile, cercando di alleviare la sofferenza. Allora il messaggio della nostra amministrazione è molto semplice: queste cose non devono succedere più. Dobbiamo essere noi amministrazioni, a tutti i livelli, locale, governo centrale, tutti quanti in grado di far sì che queste cose non debbano succedere più. Questa era la voce del sindaco nonché commissario alla ricostruzione Bucci. E con noi in questa serata anche Tullio Solenghi. Buonasera Solenghi. Buonasera a voi tutti. Voce di Genova in questo caso, con la G maiuscola, cittadino di Genova. Come racconta Solenghi quello che è accaduto e questo momento che per molti rappresenta una rinascita, addirittura alcuni definiscono questo momento anche una rinascita per il paese intero? Ma io ho ascoltato l'intervento di prima e io credo, innanzitutto voglio fare un discorso. Questo non è una costruzione di un'opera imponente, ma è una ricostruzione. Questa sillaba di differenza nasconde, nel senso contiene, la tragedia del crollo del ponte precedente, quindi non si può parlare di questa giornata senza fare riferimento alle 43 vittime, cosa che stanno facendo tutti, per carità. Quindi questa è una premessa d'obbligo, è difficile parlare in libertà, in euforia, in orgoglio senza avere comunque questa componente drammatica, tragica in ognuno di noi, e vorrei che questo servisse per non dimenticarsene mai, cosa che spesso accade per queste cose, vedi la strage di Bologna, della stazione di Bologna e tante altre stragi. Questa non è una strage ovviamente perpetrata ai danni, ma una strage dovuta alla inefficienza del ponte precedente, di chi ovviamente doveva preservarlo nella sua integrità. Detto questo, è chiaro che se uno va a fare i conti, magari c'è qualche, di sicuro ci sarà qualche, da spulciare qualcosa, da vedere che i costi sono stati raddoppiati, eccetera. Io però non farei un discorso in assoluto, io farei un discorso pragmatico legato alla realtà italiana. Un'opera pubblica in Italia spesso, normalmente, negli anni di non realizzazione è arrivata a volte a decuplicare la cifra che era stata stanziata per costruirla, e i tempi sono spesso biblici, 5 volte tanto, 10 volte tanto, lo vedo anche nei lavori pubblici molto più semplici del ponte. Quindi quello del ponte continuo a considerarlo un miracolo italiano, ci tengo a dirlo, un miracolo genovese, perché ci siamo sempre riferiti in passato ad esempi che avevano, come costruiscono i giapponesi, i cinesi, in 40 giorni, in un mese. Ecco, questa volta abbiamo un esempio interno che è un esempio che ci fornisce questo meraviglioso ponte costruito da Piano, i piloni dovevano essere quelli, non me ne frega niente perché è un'opera meravigliosa che tutti stimano come un capolavoro, quindi io metterei da parte i conti del Droghiere e guarderei all'insieme. L'insieme è una cosa esaltante, 475 giorni per costruire un ponte della lunghezza di più di un chilometro, piloni 18, 10, quelli che sono, qualcosa sicuramente non ha funzionato rispetto alle previsioni, ma sono inezie rispetto all'enormità di una cosa che in Italia non è mai accaduta, o è accaduta solo in epoche ormai di cui ormai si è persa la memoria. Quindi come italiano, come genovese, sono orgoglioso, anche perché è stato costruito da uno dei più grandi geni dell'architettura, che è genovese, che è l'architetto Piano, e quindi non ho alcun tipo di riserva da fare su questo strepitoso exploit che è stato compiuto da questa città e che potrebbe compiere l'Italia. Solenghi, secondo lei risolverà buona parte dei problemi che anche la città dal punto di vista infrastrutturale sta vivendo in questi mesi, addirittura in questi anni? Qui entriamo invece nella fase del pragmatismo. Risolverà è una speranza, perché se da un lato c'è questa meraviglia che è inaugurata in questi istanti, con tutto il discorso che ho fatto prima, si rischia di non arrivare a provarlo questo ponte quando fra due giorni sarà aperto agli automobilisti, perché ci sono, io l'ho fatto adesso perché ci sono passato adesso, ci sono almeno una galleria su tre che è chiusa per lavori di manutenzione. Ecco, questa esplosione dei lavori di manutenzione tutti insieme secondo me avrebbe dovuto, insomma lo dico assolutamente da profano, ma col credo il normale buonsenso di chi ogni giorno si deve sorbire ore e ore di coda, forse dovrà essere programmato in maniera più intelligente, distribuito nel tempo e non condensato tutto proprio in questo periodo. Per cui io mi auspico che questo esempio serva per il futuro. Attualmente non sta servendo, attualmente rimane, ripeto, un'isola felice, incredibile, quella del ponte. Vedremo tra due giorni quando verrà riaperto. Solenghi, grazie per essere stato con noi. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. Sono le 18:51 minuti. Adesso ci colleghiamo nuovamente con Genova. C'è il presidente della regione Toti che sta parlando. Della stessa tenuta delle nostre istituzioni, di quel patto sociale che lega il nostro paese. Non deve accadere mai più. E la giustizia, quella che si pronuncia nei tribunali in nome del popolo italiano e che è connaturata alla verità, è quella che ancora aspettiamo per i 43 morti di questo ponte, sono certo che arriverà. E poi sempre così, perché dobbiamo far sì che questo sacrificio non sia stato vano. Sempre così vuol dire che allora si può fare, banalmente, vuol dire che tutte le nostre opere pubbliche possono essere fatte con questi tempi, con questi metodi, in questo modo, e anche questo deve essere un impegno che lega tutti noi oggi su questo ponte, perché questo ponte oggi riunisce i due lati della Val Polcevera. E allora, per citare un ligure famoso che subì una pesantissima ingiustizia, che Enzo Tortora, quando tornò davanti al suo pubblico in televisione, disse: dove eravamo rimasti, semplicemente. Ecco, dico anch'io, oggi siamo dove eravamo rimasti, le due sponde sono di nuovo collegate e questo ponte segna la strada. E allora rimettiamoci in cammino per Genova, per San Giorgio, come abbiamo chiamato questo ponte, per la Liguria e anche per l'Italia. Grazie Presidente, grazie a tutti. Andrea Ferro, chi parlerà adesso, dopo il Presidente Toti? senatore architetto. È ora prende la parola praticamente l'artefice di questo piano, dalla cui matita, di questo ponte, dalla cui matita ha preso forma il ponte, e appunto in qualche modo lo avete capito nel mio errore, è Renzo Piano, l'architetto genovese che ha donato il progetto alla struttura commissariale, e grazie appunto al suo genio ha preso forma Ponte Genova-San Giorgio. Lo ascoltiamo. Un'intensa commozione. Eccolo. Cari tutti, oggi è un giorno di intensa commozione. Dovrò cercare le parole. Perché questo ponte è figlio di una tragedia, di un lutto. E le tragedie, i lutti non si dimenticano, non si possono dimenticare. Si elaborano, si metabolizzano, ma restano imprigionati nelle nostre coscienze. Non c'è niente da fare. Diventano l'essenza stessa di quello che noi saremo. Ecco, qui, in questo posto, ci siamo tutti smarriti 2 anni fa, nello sgomento di questa tragedia. E qui oggi ci ritroviamo. Ci ritroviamo anche per un'altra ragione, ci ritroviamo anche per ringraziare chi ha costruito questo ponte, l'energia che ci ha messo, con rapidità ma senza fretta. Io ho contribuito, ho dato un'idea, sì, l'idea di un ponte che attraversi piano piano la valle, così, passo per passo, in silenzio, quasi chiedendo il permesso. Un ponte che sia come una nave, un grande vascello bianco che attraversa la valle. Beh, però poi bisognava farlo questo ponte. È qui che allora è uscita la forza, l'energia di questo paese, straordinario. Abbiamo avuto più di 1000 persone, dai commissari fino ai più modesti manovali. È stato straordinario, questo è stato il più bel cantiere che abbia avuto in vita mia. Straordinario, semplicemente straordinario. Per questo dobbiamo riconoscenza a tutti. E quando si è alla fine di una grande fatica, ciascuno di noi si aspetta una piccola perla come premio. Ecco, questa piccola perla sia la riconoscenza. E così, per questa ragione così drammatica questa giornata, perché siamo sospesi tutti quanti, siamo sospesi tra il cordoglio di quella tragedia e l'orgoglio di aver ricostruito il ponte. E non sappiamo più che pesci prendere. Noi genovesi, poi che siamo un po' così, un po' selvatici, lo sapete, restiamo zitti, in silenzio, ma si fa per dire, insomma. Questa è la voce dell'architetto Piano, che sta appunto parlando prima, direi, del Presidente del Consiglio e poi il Presidente della Repubblica. In questi ultimi 2 minuti che ci separano da GR24 vorrei chiedere a Maurizio Caprino, dal tuo punto di vista, l'apertura del ponte fra 2 giorni, quindi il 5 di agosto, risolverà fino a che punto i problemi della viabilità di Genova e della Liguria? Ma l'ha già detto Solenghi, non potrà risolvere fino a quando avremo tutti questi problemi in galleria. Solenghi sbagliava laddove pensava che questo fosse soltanto un problema di programmazione. No, è capitato che questi lavori, queste ispezioni si dovessero fare, perché il 30 dicembre dell'anno scorso qualcuno ha rischiato di beccarsi 2,5 tonnellate di cemento sulla testa. Per fortuna non passava nessuno, sarebbe stata un'altra tragedia, un altro segno dell'incuria della nostra rete. Se poi mi permetti Enrico, volevo completare il mio pensiero prima sul modello Genova. Solenghi dice che non interessano le mie argomentazioni, ma io pensavo di dire che il modello non è estensibile a tutte le opere, non c'è nulla da fare, questa è un'opera assolutamente eccezionale, anche perché ricordiamoci che laddove si è cercato di snellire iter burocratici in Italia, poi ha prosperato la corruzione, è una costante di tutte le grandi opere italiane, e quindi bisogna fare i conti anche con questo. Grazie Maurizio, ci sentiamo più tardi dopo le notizie di GR24, perché c'è tutto il dossier legato alle inchieste, alle responsabilità, perché Tra l'altro questo è un dossier molto complesso, ne parleremo più tardi. Un'ultima battuta di 30 secondi, 20 secondi da Andrea Ferro dal Ponte San Giorgio. Esclusivamente per un aggiornamento meteo, il cielo si è rasserenato sul mare, resta plumbeo nell'entroterra, ma queste condizioni meteo non dovrebbero pregiudicare l'esibizione delle frecce tricolori. Ci risentiamo dopo il GR a te. Molto bene, grazie ad Andrea Ferro. Sono le 18.58 minuti e già pronto Vincenzo Miglietta nel nostro studio di Roma per GR24 delle 19. Noi ci sentiamo subito dopo per continuare a seguire questa cerimonia. Sta ancora parlando Renzo Piano. Tra poco parlerà anche il Presidente della Repubblica. Ci sentiamo tra poco. Sei pronta? Sì. Sostituire l'olio del cambio regolarmente ti permetterà di cambiare marce facilmente ed evitare l'usura eccessiva. Fai le vocine, papà. A differenza dei precedenti modelli di cambio manuale, non è sufficiente svuotare e riempire il livello dell'olio. I carburanti Esso Synergy sono i primi carburanti base con additivi creati per aiutare a proteggere il motore della tua auto. Carburanti per la prossima generazione di automobilisti. Scopri le stazioni aderenti in Italia su esso.com. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto notte estate. Ancora una buona serata da Enrico Pagliarini. Sono le 19:11 minuti 30 secondi. In regia c'è Valeria Bernardi. In redazione Valentina Ternullo, Laura Vanossi, Alessandro Schirano. Noi ci colleghiamo nuovamente con Genova, stiamo seguendo l'inaugurazione del nuovo ponte, si chiama Ponte San Giorgio, che prende il posto del Ponte Morandi, crollato alle 11.41 del 14 agosto di 2 anni fa. Andrea Ferro, collegato da Genova, che cosa sta accadendo in questo momento? Allora, in questo momento c'è la preghiera dell'arcivescovo, neo-arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che praticamente anticiperà poi la benedizione del ponte, seguirà il taglio del nastro da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella. Abbiamo visto in lontananza la pattuglia acrobatica che stava volteggiando sopra la Valpolcevera in formazione, chiaramente ancora senza fumogeni, significa quindi che anche l'esibizione delle frecce tricolori è confermata all'interno di un programma che è rimasto in forza fino all'ultimo in seguito all'evoluzione delle condizioni meteo, uno scenario che resta ancora, diciamo così, precario. Ci sono nuvole nere nell'entroterra, è sereno invece sul mare, però evidentemente ci sono le condizioni per garantire la sicurezza dell'esibizione delle frecce tricolori. Dimmi Enrico. No, adesso ti fermo un attimo perché in attesa di sentire le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, collegata con noi Egle Possetti, che guida il Comitato dei Familiari delle Vittime. Buonasera. Buonasera a tutti. Voi avete incontrato il Presidente della Repubblica poco fa. Sì, poco fa. È stato un incontro molto emozionante. Il Presidente Mattarella c'è molto vicino e incontrarlo per noi è sempre, insomma, un momento molto molto delicato, insomma. E noi abbiamo segnalato alcune nostre sensibilità al Presidente inerenti, insomma, alla concessione, perché pensiamo che questa partita interessi tutti gli italiani. La mancanza di fiducia nostra verso chiaramente chi era il gestore nel momento in cui i nostri cari sono stati uccisi dal crollo del ponte, e un'attenzione al portafoglio degli italiani, perché non pensiamo che sia corretto che tutte le manutenzioni non fatte siano poi a carico di noi cittadini, e ugualmente pensiamo che non sia corretto che chi insomma dovrà cedere le quote, come dall'accordo che sta per essere, insomma, portato avanti nella discussione, nel dibattito, possa uscire con un introito elevato, perché, insomma, secondo noi questo non è corretto. Prego. Sì, io le dico velocemente le altre cose. Abbiamo segnalato la nostra sensibilità sul tema giustizia, perché per noi è fondamentale che la giustizia diciamo faccia il suo corso il più possibile veloce. Abbiamo segnalato avendo provato quello che è la situazione di familiari in queste condizioni, la necessità che sia creato uno staff, diciamo un'unità di crisi e una serie di fondi per casi che speriamo non avvengano mai come il nostro, perché le persone in questi momenti sono in difficoltà, potrebbero essere anche economicamente. Questo fondo poi sarebbe reso nel momento in cui a fine processo i familiari acquisiranno gli indennizi. Sì. Quindi non a fondo perduto. Ultima cosa, gli abbiamo detto che per la gravità della situazione noi chiediamo che i nostri cari abbiano riconosciuto lo status di vittime di stragi o vittime di Stato, come sarà la formula che verrà scelta, come è avvenuto ad esempio per la strage di Bologna e in altre stragi. È troppo grave quello che è capitato, deve esserci un riconoscimento per le loro morti. Signora Egle, lei chi ha perso in questa tragedia? Purtroppo io ho perso 4 persone, ho perso mia sorella affezionatissima, i miei 2 nipoti, io sono zia senza figli, e quindi immagini come per me erano i miei nipoti, e poi mio cognato, 4 persone. In questo momento, lo dico giusto per cronaca, stanno passando le frecce tricolori sulla città di Genova. Le faccio un'ultima domanda. Molto bene e molto condivisibile il suo appello alla giustizia. È corretto che i processi vengano celebrati nei tribunali e non pubblicamente, come in alcuni casi è stato fatto. Avete anche sollecitato il Presidente a una analisi sulle responsabilità dello Stato, perché qui si parla molto spesso dello Stato che deve riprendere le infrastrutture, ma forse in questo caso alcuni che dovevano controllare un gestore che non ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare, insomma, forse andava acceso una luce in questo caso. Sì, questo vabbè, chiaramente le responsabilità emergeranno dal processo, però per noi è essenziale che poi lo Stato abbia un ruolo molto importante e che soprattutto chi deve controllare non sia chi deve essere controllato, perché deve esserci poi indipendenza da questo punto di vista. Sì. Chiaramente io credo che in questa vicenda ci saranno responsabilità maggiori, responsabilità minori, ma chiaramente non ci sarà un unico soggetto che come dire, uscirà con delle colpe. Penso che è caduta la linea, ma comunque aveva terminato il pensiero. Era Egle Possetti, guida il Comitato dei Familiari delle Vittime. Andrea Ferro, sentiamo forse le frecce tricolori che stanno passando? Sì. Però ti sentiamo male. Allora noi andiamo da Maurizio Caprino e poi diamo la parola anche a Raffaella Calandra, perché parleremo di responsabilità e di inchieste aperte. Maurizio, effettivamente il tema dei controlli, del controllore che controlla e che forse non è stato controllato a sufficienza dallo Stato, è uno dei temi. No, direi che è proprio il tema, è il tema che non solo può essere alla radice del crollo del Ponte Morandi, ma anche della paralisi ligure e di tutte le altre situazioni che sono successe in Italia, che non stiamo a ricordare, e di quelle che succederanno, perché qui veniamo da decenni in cui un ministero per conto dello Stato non ha controllato, anzi si è messo nella condizione di non controllare. Al ministero c'era chi sapeva, assolutamente sapeva, c'era chi sapeva ed è stato fermo, chi sapeva ha cercato di muoversi ma è stato messo in un angolo. Queste sono verità storiche che io ritengo acquisite, non c'è più bisogno di alcuna indagine penale su questo, quindi se dobbiamo fare un discorso di sistema appunto è andata assolutamente così. Ci ritroviamo nella situazione attuale come quella del caos che stiamo vivendo ancora sulle autostrade liguri per la questione delle gallerie, in un attorcigliarsi di responsabilità, di accuse fra controllato e controllore e soprattutto in un groviglio anche giuridico che a questo punto non consente più di distinguere bene le responsabilità e ancora peggio sta probabilmente costringendo il Ministero delle Infrastrutture, che in questo inizio dell'anno, diciamo dall'inizio di quest'anno in poi, ha sguinzagliato un suo ispettore per mettere a posto diverse situazioni, già si intravedono dei segnali per cui questa azione non deve essere estesa a tutta la rete, ma deve fermarsi a questa azione dimostrativa, perché se cominciamo a mettere le mani su tutta la rete diventa un processo che noi non riusciamo più a governare, sia dal punto di vista proprio burocratico e operativo, sia anche banalmente per una questione di soldi, perché si stima che per sistemare la rete di autostrade per l'Italia, che è metà della rete autostradale italiana, ci vorranno circa 20 miliardi. Altrettanto per tutte le altre autostrade a pedaggio, non ci sono stime, ma sicuramente una cifra altissima per quanto riguarda la rete ANAS. Allora andiamo a cifre che non abbiamo preso neanche con il tanto celebrato recovery fund di cui si parla in queste settimane. Quindi qui stiamo scontando un ritardo di appunto mancati interventi per una precedenza che è stata data al profitto e alla convenienza politica. Ci troviamo adesso in una situazione di default alla greca dal punto di vista infrastrutturale. Chiarissimo. Raffaella Calandra, inviata di Radio 24, ha seguito fin dai primi momenti le inchieste, perché non stiamo parlando di una inchiesta. A che punto siamo, Raffaella? Buonasera. Buonasera Enrico, a te e ai nostri ascoltatori. No, non è una sola, ma sono quattro, anche se sono nate tutte da quel grande fascicolo aperto nelle ore drammatiche del crollo del ponte, quindi l'inchiesta madre, e poi ci sono stati altri tre diversi filoni. Sta scontando un po' il ritardo dovuto anche all'emergenza Covid, però devo dire sta procedendo a passi anche abbastanza veloci, perché nell'inchiesta principale si è in questo momento nella seconda fase dell'incidente probatorio. Che cosa significa? Il momento in cui si cristallizzano, come si dice in gergo tecnico, cioè si definiscono le prove che poi appunto verranno considerate anche nel futuro processo. Sono 68 gli indagati per reati colposi, cioè disastro, omicidio, per attentato alla sicurezza dei trasporti, falso anche per l'ipotesi di aver truccato le ispezioni sul ponte, poi ci sono altri tre indagati per favoreggiamento, e poi sono indagati anche le stesse società di cui parlavate prima con Maurizio Caprino, ossia ASPI e Spea. Gli altri tre filoni riguardano, diciamo, quello che si è scoperto mano a mano che si indagava sulla manutenzione sul vecchio ponte Morandi e sulle comunicazioni, soprattutto tra tutti quanti i dirigenti, mail e comunicati che ora vengono anche passati al vaglio da un super computer che è stato acquistato dalla Guardia di Finanza di Genova. E gli altri filoni riguardano, uno, i falsi report sulla sicurezza dei viadotti, le barriere antirumore, e poi il tema delle gallerie su cui ci sono stati anche degli altri crolli. Quindi il tema è più ampio, come ricordava Maurizio Caprino, riguarda le responsabilità su quel ponte. Infatti lo stesso procuratore Cozzi le scorse ore ha detto: io mi occupo del ponte vecchio, e infatti anche i tempi di costruzione e quindi di inaugurazione di questo ponte sono strettamente collegati alle vicende giudiziarie, perché ricordiamolo, per lungo tutta la zona del ponte Morandi è stata ovviamente oggetto di sequestro per poter prelevare quelle macerie che poi sono state esaminate, e adesso ci sarà un altro perito del Politecnico di Milano che dovrà anche analizzare dopo le macerie anche le immagini del crollo. Inchiesta molto complessa in cui si intrecciano vari livelli, però come sempre le responsabilità penali riguardano un settore, un segmento per quanto fondamentale, perché da questo poi dipenderà anche tutto il tema dei rimborsi e anche molto gran parte del dibattito, diciamo, politico su concessionarie e tutto il resto. Ma il tema, quello che è emerso da questa inchiesta sul crollo del ponte Morandi, è un aspetto di un settore più ampio che riguarda appunto una questione istituzionale e più sistemica, come già ricordavate poco prima e come anche già nelle inchieste e nei vari anche interrogatori di teste è emerso. Raffaella, grazie per questo assunto di una materia molto complessa, ci metteremo anni per comprendere la verità. Finora non abbiamo parlato o molto brevemente del ponte in sé, un'infrastruttura, un'opera moderna, tecnologicamente avanzata. Andrea Ferro, intanto che cosa sta succedendo in questo momento a Genova? Sono passate le frecce tricolori? Sì, allora c'è stato lo spettacolo, chiaramente sempre molto emozionante, delle frecce tricolori che hanno attraversato dall'alto la città, praticamente hanno compiuto 5 evoluzioni sulla Valpolcevera, passando 4 volte sopra il Ponte San Giorgio. Poi c'è stato il taglio del nastro, contrariamente a quanto era stato detto nel programma, peraltro ufficioso, perché non è mai stato diramato un programma ufficiale, avrebbe dovuto essere il capo dello Stato a tagliare il nastro, e invece è toccato al Presidente del Consiglio Conte. Poi francamente a questo punto vedete molto meglio voi in televisione, perché dalla postazione alla quale siamo un po' relegati non riusciamo a seguire l'evoluzione della cerimonia, però più che darvi cronaca di quello che sta accadendo, vi anticipo una notizia che sta circolando in queste ore, piuttosto importante. Contrariamente a quanto abbiamo detto all'inizio del collegamento, il ponte potrebbe essere aperto al traffico già domani nel tardo pomeriggio, pare dopo le 18. Invece avevamo detto all'inizio del collegamento, ed era stato detto anche nel corso delle ultime settimane, che l'apertura al traffico sarebbe scattata dopo domani al mattino in un orario non definito. Questo evidentemente deriva dal fatto che l'organizzazione, lo smantellamento del gazebo, di tutto quello che è stato allestito in queste ore per garantire appunto la cerimonia di inaugurazione, sarà più rapido, e questo chiaramente sarà un beneficio ulteriore per la circolazione. Abbiamo ricordato nei nostri collegamenti quale sia la situazione di difficoltà sulle autostrade ligure nelle ultime settimane in seguito ai lavori di messa in sicurezza delle gallerie. Per quanto riguarda il programma della cerimonia, terminata una, diciamo così, passeggiata sul ponte da parte delle autorità, tutti dovrebbero lasciare Ponte San Giorgio, ciò avviene sulla carreggiata in direzione Genova, dovrebbero lasciare Ponte San Giorgio e quindi dovrebbe, diciamo, dichiararsi conclusa la cerimonia, che in realtà avrà una coda dal mare con l'Amerigo Vespucci che si colorerà di bianco, rosso e verde, luci che saranno issate sui suoi alberi, e poi anche di bianco, rosso e verde si colorerà la lanterna che, come sappiamo, è il simbolo di Genova, come San Giorgio, la bandiera di San Giorgio è la bandiera di Genova, croce rossa in campo bianco, da qui deriva il nome che è stato dato al ponte. Enrico. Andrea, flash. È possibile che sì. Mattarella non intervenga? Perché a questo punto, certo, a questo punto assolutamente certo. Come ti dicevo, non c'è stato un programma ufficiale. Sì, sì, però è indicativo che Mattarella abbia tenuto un profilo molto basso, cioè non ha tagliato il nastro, è intervenuto sì. E basta. Sì, ora si tratta di capire come mai non abbia appunto tagliato il nastro, questo era dato un po' per scontato, poi evidentemente lo si capirà nei prossimi giorni, ma tiene anche conto che al di là ora di questa scelta, che chiaramente sarà stata una scelta ben ponderata, sulla cerimonia ha aleggiato così l'incertezza delle condizioni meteo, come raccontiamo certo. Ormai da un'ora e fino all'ultimo, quindi anche il programma è stato pesantemente condizionato a partire appunto dall'esibizione delle frecce tricolori, forse in sottofondo sentite gli effetti del vento che sì. Si è alzato, il cielo però tendenzialmente sereno sul mare, sempre grigio nero nell'entroterra, ma possiamo dire che l'inaugurazione non è stata più di tanto condizionata alla fine dalle evoluzioni delle condizioni meteo. Per quanto riguarda il ponte, se volevi fare due battute sulle caratteristiche dopo, di questo ponte, dopo, sì. Ok, dopo. Allora adesso resto in linea. Esatto, a te. Rimani in linea così anche Maurizio Caprino, tra poco avremo il capo dell'operazione di Fincantieri Infrastructure, che assieme a We Built Salini Impregilo ha realizzato quest'opera, ci racconterà molto brevemente quali sono le caratteristiche tecnologiche più importanti di questo ponte, e poi le commenteremo assieme appunto ad Andrea Ferro e Maurizio Caprino. Adesso sono le 19:29 minuti, tra poco la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta effetto notte estate. Le 19:32 minuti, una buona serata da Enrico Pagliarini. Questo è effetto notte estate. Stiamo vivendo assieme ad Andrea Ferro e anche tutti gli altri ospiti l'inaugurazione del Ponte San Giorgio, così si chiama il nuovo ponte di Genova, che potrebbe essere riaperto, o meglio aperto, perché è un ponte nuovo che nasce sulle ceneri del ponte Morandi, potrebbe essere aperto nella giornata di domani. Allora, questo è un ponte lungo 1067 metri, quindi poco più di un chilometro, ha 18 piloni, 19 campate di 50 e 100 metri, è un corpo unico, poi lo spiegheremo tra pochi secondi, e ci facciamo aiutare dal capo dell'operazione di Fincantieri Infrastructure, quindi la divisione di Fincantieri che è famosa per costruire navi ma che si occupa anche di infrastrutture, Siro Dalzotto. Allora, la caratteristica principale è che questo è un ponte in acciaio, prevalentemente in acciaio, quindi tutta la struttura portante è in acciaio. Il calcestrutto è collaborante, nel senso che per quanto riguarda l'impalcato è presente come soletta, quindi la soletta dove poi è stato fatto il manto di asfalto è collaborante con la struttura di acciaio. Dal punto di vista poi dell'aspetto sicurezza, il ponte, essendo un ponte iperstatico, quindi ha un numero di vincoli sovrabbondante rispetto alla condizione minima di equilibrio, e quindi questo garantisce dei margini ulteriori oltre a quelli normali, diciamo, per quanto riguarda i coefficienti di sicurezza sui materiali, quindi ha una intrinseca robustezza. Ecco, una cosa interessante di questo ponte è che è interamente saldato, quindi è un unico, non ha giunti intermedi, il giunto di dilatazione c'è soltanto alle due estremità del ponte, quindi non ci sono quei caratteristici sobbalzi dei ponti a più pile, cui molto spesso in ogni pila c'è poi un giunto intermedio. Questo consente di minimizzare la manutenzione, quanto è un unico nastro asfaltato e non è soggetto, diciamo, a danneggiamenti se non all'usura dell'asfalto, però non c'è il classico giunto fra campata e campata. Quali sono le tecnologie che sono state utilizzate per agevolare la manutenzione ma anche per tenere sotto controllo la struttura del ponte? Il ponte è dotato, diciamo, in modo permanente di dispositivi che rilevano lo stato tensionale dell'impalcato, quindi in che modo? Attraverso l'allungamento delle fibre tese o compressione o accorciamento delle fibre compresse sotto la sollecitazione dei carichi accidentali, quindi i mezzi mobili, quindi camion, auto e vento. Questi cosa vento, sono? Dei sensori? Sì, sono degli estensimetri, che sono dei dispositivi che vengono fissati rigidamente alla parte interna dell'impalcato, e in questo modo si misura proprio l'allungamento delle fibre in acciaio. Parliamo di allungamenti ovviamente minimi, che però rivelano in equivalenza lo stato tensionale. Ovviamente tutti questi sensori sono collegati attraverso fibre ottiche, e quindi questo consente di monitorare continuamente l'opera. Anche per la manutenzione? Allora, intanto ci sono dei dispositivi, dei robot che consentono attraverso dei bracci in fibra di carbonio di ispezionare la parte inferiore, oltre a correre su guide predisposte nel bordo inferiore del ponte e nel bordo superiore. Quindi in questo modo tutto il fondo viene monitorato da questi robot di ispezione. Poi ci sono sempre dei robot che vengono utilizzati per il lavaggio delle barriere, quindi okay. Ci sono i pannelli fotovoltaici che alimentano gli impianti elettrici, quindi continui su tutto il ponte. Quindi l'infrastruttura è autonoma dal punto di vista energetico? Sì, sostanzialmente sì. Maurizio Caprino, e poi ti salutiamo. Maurizio, ti abbiamo tenuto collegato per più di un'ora, ti ringraziamo. Molto brevemente, vuoi aggiungere qualche cosa e magari raccontare anche qua? Il ponte è molto bello, insomma, è stato costruito in tempi molto rapidi, però c'è qualcosa forse da da dire di più. Sì. Sì, ed è un altro addentellato del modello Genova, nel senso che appunto insomma, abbiamo sentito tutta la tecnologia, tutto quanto, e mancherebbe anche che non fosse un ponte assolutamente all'avanguardia. Stride però il fatto che dobbiamo avere una curva con un limite di velocità molto basso, perché questo ponte non è in regola con le norme attuali geometriche di costruzione delle strade, per cui il raccordo con la vecchia autostrada, con l'autostrada preesistente andando verso Savona, è una curva molto stretta, sicuramente più stretta di quello che le norme oggi richiedono, e come le norme oggi richiedono, quindi laddove non si può avere un raggio a concio, si deve abbassare i limiti di velocità o comunque avere delle misure compensative. È stato messo anche un asfalto ad altissima aderenza. Questo per dire cosa c'entra col modello Genova. C'entra perché il modello Genova nasce dal decreto Genova, che prevede la deroga, l'operare in deroga a tutte le norme tranne quelle penali e quelle comunitarie. Quindi si è operato in deroga appunto alle norme attuali di costruzione delle strade, però queste norme rientrano dalla finestra nel momento in cui tu riapri al traffico. Quindi in fase di costruzione il decreto Genova ha dato un lascia passare per tutti, però poi i nodi vengono al pettine, ed è un altro motivo per cui il modello Genova non può essere applicato, invece applicato normalmente. Quindi scusa, a proposito della curva, c'è la conseguenza che c'è un limite di velocità molto basso. C'è un limite, allora attualmente hanno messo l'80 all'ora, hanno messo un 80 all'ora che è sempre 10 in meno del vecchio Ponte Morandi, però è stata fatta diciamo una forzatura, perché poi c'è anche questa particolarità dell'Italia che si sarebbe dovuto mettere 70 o addirittura 60, ma l'esperienza pregressa sulle vecchie autostrade proprio della Liguria ha dimostrato che la combinazione di un limite molto basso e poi magari di un controllo di velocità che viene messo lungo il percorso porta alcuni a rallentare, altri invece a tamponarli, e quindi è già successo, ripeto, racconto storie accadute, è già successo che si dovesse rialzare il limite di velocità. Quindi adesso si è adottata una soluzione quasi intermedia, però bisognerà vedere come andrà nei primi mesi di esercizio di questo ponte. L'altra cosa interessante da dire è che come sentivamo, questo è un ponte ipermonitorato, dovrebbero essere non così monitorate ma abbastanza monitorate tutte le altre infrastrutture italiane, e i dati dovrebbero confluire tutti in una maxi banca dati voluta sempre dal decreto Genova ormai quasi 2 anni fa. Questa maxi banca dati è nata ma è ampiamente incompleta, e soprattutto dovrebbe servire a una agenzia, una super agenzia di vigilanza che esiste soltanto sulla carta, motivo per cui vi dicevo prima che il Ministero delle Infrastrutture ha sguinzagliato un solo ispettore, ma doveva esserci addirittura tutta un'intera agenzia al servizio della sicurezza delle infrastrutture italiane. Per questo oggi abbiamo visto tanti simboli dell'orgoglio italiano, a partire dalle frecce tricolori, eccetera, eccetera, però adesso è il momento di lavorare per vedere se siamo davvero capaci di cambiare il paese e di cambiare un sistema che sta in questi mesi, in questi ultimi anni, mostrando i suoi limiti clamorosi. Grazie a Maurizio Caprino. Maurizio, è sempre un piacere leggere i tuoi articoli sul Sole 24 Ore, quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a farlo, anche abbonandosi a tutte le sezioni speciali e in generale a Sole 24 Ore. Grazie, a presto, buona serata. A te, arrivederci a tutti. E buon lavoro, visto che poi Maurizio scriverà un pezzo sulla Gronda di Genova, tra l'altro, che è un tema che non abbiamo toccato e affrontato, ma avremmo potuto farlo, ma ormai sono le 19:40. Un breve flash ancora da Genova con Andrea Ferro. Andrea, scusa, a proposito del ponte, ma è tutto completato attorno, o come accade in altre occasioni, cioè il ponte completato e tutto attorno invece ancora un cantiere? Allora, io ho al microfono Pietro Salini, amministratore delegato WeBuild, praticamente uno degli artefici del ponte. Salini, una grande giornata per Genova, per l'Italia. È una bella giornata di celebrazione del lavoro. Io sono contento che oggi si ricordi tutti che cosa abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto, sfidando quali quali difficoltà, ma soprattutto le 1200 persone che lo hanno fatto con le mani. Intervengo un attimo a gamba tesa sul collega della RAI, mi stanno chiedendo da Radio 24. Qual è il modello Genova. Ce ne vorrei... Modello sta Genova succedendo? Sta chiedendo il collega. Allora il collega sta chiedendo del modello Genova, se vale, se può valere anche altrove. L'obiettivo che è comune per tutti, significa allineare gli interessi, allineare il lavoro e remare tutti nella stessa direzione. Questo è quello che si può fare dappertutto, non ci sono regole che sono state violate, se sono state rispettate tutte le regole, non ci sono leggi speciali che siano state utilizzate, perché abbiamo utilizzato sempre le stesse leggi. È un fatto di persone e di volontà di realizzare le cose. È l'alibi dietro cui si nascondono tutti e cioè non abbiamo le regole per fare. Non è vero, qua ci sono state impiegate tutte le regole di tutti gli altri cantieri che ci sono in Italia e ci sono state fatte con delle persone che volevano ottenere un risultato e lo hanno ottenuto. Qual è stato il momento più difficile? L'anticorruzione? Ma certo, l'abbiamo gestita qua, l'abbiamo gestita dappertutto, ci sono i protocolli di legalità, non ci sta niente da nascondere, basta fare le cose con trasparenza. Qua in questo cantiere abbiamo messo 8 telecamere per far vedere alla gente tutti i giorni, tutti i minuti, notte e giorno, che cosa succedesse. Qual è stato il momento più difficile? Il momento più difficile qual è stato? Come avete chiesto prima. Il momento più difficile è stato tutti i giorni, la paura di non riuscire a farlo in tempo, di non rispettare il nostro impegno, grazie al cattivo tempo che c'è stato, al Covid, a tutto, invece ce l'abbiamo fatta lo stesso. Grazie, eccoci. Bene, grazie ad Andrea Ferro, magari Andrea ci sentiamo dopo, sono le 19.43 minuti, questo effetto notte estate che normalmente è dedicato a tutte le notizie del giorno, oggi abbiamo dato ampio spazio a questa inaugurazione del Ponte San Giorgio a Genova, adesso ci colleghiamo con Sergio Nava. Sergio, buonasera, benvenuto. Ciao Enrico. Sergio Nava dalla redazione di GR24. Sergio, tu stai seguendo in queste ore un altro tema di giornata molto importante, che è quello legato ai flussi migratori. Allora, un breve accenno alle ultime notizie di cronaca, poi parliamo del tema politico che coinvolge anche l'Europa, dovrebbe coinvolgere anche l'Europa. Sì, diciamo che anche oggi la cronaca ci porta a una situazione comunque, anche a causa della pandemia, abbastanza complicata. 200 migranti sono sbarcati in 8 sbarchi diversi all'interno di barchini nell'isola di Lampedusa, e poi ci sono anche le fughe dai centri di accoglienza, un'ottantina di migranti che tra l'altro si trovavano in quarantena precauzionale, in realtà avevano già fatto un primo test, un primo tampone negativo, ma stavano conducendo la loro quarantena a Campomarino in Molise, sono fuggiti, altri 50 tunisini sono scappati dalla struttura di Porto Empedocle, e abbiamo anche invece questo a Udine nell'ex caserma Cavarzerani, una protesta di oltre 400 richiedenti asilo per la situazione in cui si trovano di quarantena. Diciamo che resta una situazione, come accennavo, molto tesa sia sul fronte sbarchi sia sul fronte anche dei centri di accoglienza, dove si trovano molti migranti che aspettano di essere testati, ovviamente per quanto riguarda il coronavirus, ma anche di essere redistribuiti, e questo sullo sfondo di della nave della quarantena che è arrivata, la nave GNV Azzurra, che è arrivata a Porto Empedocle, che dovrà ospitare poi i migranti che nell'Agrigentino sono attualmente nei centri di accoglienza e che aspettano di conoscere la loro sorte. Allora, sul fronte politico, il presidente del Consiglio Conte oggi ha detto non tollereremo ingressi irregolari, siamo per la linea dura, per il momento nulla di tutto ciò si sta vedendo, e poi c'è anche il fronte Europa, perché tempo fa l'Unione Europea ci aveva, non so se dire, abituato ai famosi ricollocamenti, e però da questo punto di vista nulla accade in questa fase. Diciamo che da qualche giorno il governo, anche di fronte a tutti questi episodi di cronaca, abbiamo citato solo quelli di oggi, ma ovviamente arriviamo da una decina di giorni in cui tra sbarchi e fughe dai centri accoglienza e dalle quarantene, la cronaca è piena di queste notizie, il governo ha visivamente cambiato linea. Se all'inizio ha quasi sembrato prendere un po' sotto gamba la situazione, sta spostando il baricentro della questione migranti, diciamo più a destra, se vogliamo, nello spettro politico, tanto che le dichiarazioni del Premier Conte sono molto dure. Appunto, ha detto non si entra in Italia in questo modo, in questo momento di fase acuta della pandemia, ci sono migranti e tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo essere duri e inflessibili. E Conte, appunto, ha parlato anche della questione rimpatri, occorre intensificarli. Allora, qui arriviamo alla questione europea, se vogliamo. Un'Europa che, devo dire la verità, è abbastanza invisibile quest'anno. Siamo stati abituati ad altri anni di crisi migranti con un'Europa molto più presente. Quest'anno forse è complice anche il cambio della commissaria agli affari interni, alle migrazioni. Non c'è più il greco Avramopoulos, che anche per origine del sud Europa era molto più attento. C'è una svedese, si chiama Johansson, Ylva Johansson, abbastanza desaparecida, se vogliamo, sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista appunto dell'emergenza migranti. Oggi il ministro degli esteri Di Maio ha chiamato in realtà il commissario europeo all'allargamento, l'ungherese Varelli. Anche qui gli ungheresi non sono esattamente i più sensibili. Di Maio ha detto l'Europa, a Varelli ha detto l'Europa si deve dotare di una lista di paesi sicuri per velocizzare la cooperazione comunitaria in materia migratoria. Lista dei paesi sicuri sono i paesi verso i quali, diciamo, si possono organizzare più velocemente i rimpatri, in quanto non presentano quelle condizioni di pericolo per i migranti che invece altri paesi chiaramente hanno. Però in generale ieri è arrivato il supporto, ricordiamo, è arrivato il supporto tedesco, non lasciamo l'Italia da sola, lo stesso Di Maio ha ringraziato il suo collega e il suo omologo Maas. Però a parte il supporto tedesco, a parte anche un'intervista del ministro degli interni francese Darmanin, che in qualche modo lasciava intendere una certa solidarietà francese, almeno a parole, verso l'Italia, c'è un'Europa sostanzialmente distratta anche dalla crisi pandemica nei confronti di questa emergenza migranti. Ognuno fa un po' per sé, la Grecia ha i suoi problemi, l'Italia ha i suoi problemi, ma la solidarietà europea sinceramente si è vista molto poco. Aggiungo solo un'ultima cosa: si sta parlando della riforma del sistema di asilo, di un nuovo patto europeo per l'immigrazione, ma parliamo di una proposta della Commissione europea che dovrebbe arrivare a settembre-ottobre, quindi presumibilmente quando tutto ciò si sarà calmato. Certo. Sergio, grazie e buon lavoro. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Davide Ludovisi è un giornalista ed è autore di un documentario che ci pone l'attenzione su un fronte di cui ci occupiamo poco, cioè la rotta balcanica. Questo documentario è disponibile su Vimeo e si intitola Rotta balcanica, ultima fermata. Buonasera Ludovisi. Buonasera. Effettivamente le notizie spesso arrivano dal sud Italia, dal mare, perché i barchini o i barconi fanno notizia, e invece tutte le persone che arrivano dalla rotta balcanica molto spesso non si vedono, ma sono moltissimi. Più o meno quali sono le dimensioni di questo fenomeno? È difficile da stabilire, perché per sua stessa natura è un percorso invisibile, perché appunto le persone cercano di non farsi beccare, di non rimanere fermi quando appunto per loro è un viaggio spesso per il nord Europa. Quindi mentre appunto gli arrivi con i barconi sono evidentemente molto visibili spesso, la cosiddetta rotta balcanica è percorsa spesso da singoli che si riescono anche un po' facilmente a nascondere. Le cifre sono, è difficile da stabilire, come dicevo, più o meno l'accoglienza, perché anche Trieste è un laboratorio, e l'accoglienza diffusa a Trieste l'anno scorso ha conteggiato più o meno 3.000 persone gestite, però dobbiamo tenere presente che sono almeno il doppio che appunto sono transitate per Trieste, almeno il doppio che si sono fermate e poi hanno proseguito, e anche che sono tornate, perché ovviamente questi viaggi non sono ovviamente delle linee rette, ma sono viaggi lunghi e che prevedono diverse tappe, insomma. Adesso facciamo sentire la voce di Caterina Bove, che è un avvocato dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, un estratto dal tuo documentario, sentiamolo insieme. Il termine clandestino è sbagliato, perché chi giunge in Italia, in particolar modo per chiedere protezione internazionale, non ha altri modi che farlo che quello di entrare irregolarmente in Italia. Quando entrano domandano protezione internazionale. Se quella protezione viene riconosciuta, il loro soggiorno non è mai stato irregolare ab origine. Se invece la protezione alla fine non gli viene riconosciuta, il loro soggiorno viene definito irregolare e quindi la persona viene invitata a lasciare il territorio entro un tot di giorni. Davide, un breve accenno a un'espressione che viene utilizzata da i migranti che arrivano da Bosnia e Croazia, che parlano di the game, cioè paragonano il loro viaggio a un videogioco. Sì, brutta roba, nel senso che the game è proprio la definizione che gli stessi migranti danno a quello che è un gioco molto crudele, cioè loro praticamente cercano di arrivare in Europa, cercano di arrivare appunto, di superare la Croazia, perché nessuna intenzione di rimanere in Croazia, in Slovenia e spesso neanche in Italia, però soprattutto in Croazia vengono presi e vengono pestati, torturati, viene tolto appunto il cellulare, eccetera, e vengono rispediti con una modalità assolutamente illegale dal punto di vista del diritto internazionale indietro. E quindi il gioco è in qualche modo rimasto nella cosiddetta una sorta di limbo nella foresta, di fatto, di ritentare di attraversare. E il gioco, tra virgolette, molto crudele, è che appunto la polizia spesso li ribecca e spesso li riporta indietro, quando a volte non ci scappa pure il morto, insomma. E questo è un problema europeo, ovviamente, cioè noi stiamo delegando ad altri paesi, in questo caso tra l'altro a paesi europei, la gestione di un fenomeno che forse non vogliamo affrontare veramente in maniera seria e razionale. E appunto il documentario fondamentalmente è uno spiegone per cercare di appunto parlare in modo oggettivo e giornalistico di un tema che spesso viene affrontato molto di pancia, no? Da una parte e dall'altra. In realtà appunto ci sono anche dei termini, abbiamo sentito l'avvocato parlare appunto di immigrati, non di clandestini. Noi spesso, noi giornalisti, sbagliando usiamo il termine clandestino, ma che è giuridicamente sbagliato. Perché, sì, devo dire che ultimamente si usa molto spesso la parola migrante, quindi sì, forse da questo punto di vista. Sì, per fortuna sì, però nella politica comunque il termine clandestino è spesso un termine banalmente dispregiativo, perché giuridicamente non ha molto senso, no? E quindi sì, si tratta fondamentalmente di trovare delle soluzioni anche temporanee, ma oggettive, per trattare un fenomeno umano che difficilmente sparirà. E quindi si tratta di non nascondere la polvere sotto il tappeto, ma di trovare soluzioni oggettive, che spesso sono anche soluzioni più umane ed è anche economicamente più vantaggiose per tutti, no? Sì, e poi sicuramente la dimensione minima per affrontare questo tema, questo problema, è l'Europa e anche le politiche che l'Europa potrebbe fare nei confronti di paesi in Africa, in Medio Oriente, eccetera. Davide, grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona serata, buon lavoro, a presto. Altrettanto. Ricordiamo Rotta Balcanica, ultima fermata, disponibile su Vimeo se avete desiderio e voglia di guardare questo documentario. Riccardo Barlam dalla nostra redazione a New York, buonasera. Cioè, buonasera. Per te buongiorno. Buonasera a tutti gli ascoltatori, sì, qui è molto caldo in questi giorni. Ecco, è molto caldo, e dove invece è giorno, cioè mattina, per l'ennesima volta dobbiamo commentare un grandissimo incendio, cioè siamo in California. Lì è ancora più caldo purtroppo, ci sono 20.000 acri, quasi più di 8.000 ettari di boscaglia che sta bruciando a est della grande Los Angeles, nella zona di San Bernardino e di Riverside. È stato soprannominato Apple Fire questo incendio, perché non perché c'entrano le mele, è una zona piena di canyon, piena di radure, ma perché la strada dove ci sono stati i primi focolai degli incendi si chiamava Apple Tree Lane. Adesso in quella strada non abita più nessuno, sono state evacuate, pensate, più di 8.000 persone, e solo il 5% di questi 20.000 ettari di boschi, 20.000 acri, scusate, di boschi che stanno bruciando sono sotto controllo in qualche modo. Ci sono migliaia di persone che stanno, di vigili del fuoco, che stanno lavorando per cercare di, si parla di più di 2.000 persone, di combattere queste fiamme che continuano a allargarsi. E la California è un posto dove quando fa caldo, e poi c'è il problema delle utilities, i pali della luce che sono tutti di legno, e quindi appena c'è un po' di caldo succedono spesso, ogni anno succedono questi problemi degli incendi, che è una calamità vera e propria in quel paese, che ricordo è anche uno di quelli più sotto pressione in questi mesi per la pandemia. Quindi problema su problema, in effetti questo degli incendi è un problema dovuto oltre alle temperature anche alla siccità che dura mesi, e negli ultimi anni questo fenomeno si è acuito e quindi ovviamente gli incendi se ne approfittano. Riccardo, grazie e buon lavoro. A voi. Era Riccardo Barlam, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Allora noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco ritorneremo brevemente, andremo a Genova per salutare Andrea Ferro al termine di questa lunga giornata, e poi ci occuperemo dell'isola di Budelli, ci occuperemo anche di una statua di gesso di Antonio Canova che è stata danneggiata, e parleremo anche di uno spot della Barilla molto toccante, oltre che molto divertente. Ne parliamo tra poco a Effetto Notte Estate. A proposito di incendi, ricordo anche che il problema esiste anche nel nostro paese, ci sono alcuni grossi incendi a partire di quello che sta lambendo e sta coinvolgendo anche il Parco Nazionale dell'Abruzzo vicino all'Aquila. Di questo ci occuperemo domani mattina nel corso di Ma cos'è questa estate con Laura Bettini, domani mattina in onda su Radio 24. Quindi questo è un tema che approfondiremo nel corso della mattinata. Ci risentiamo tra poco. Effetto Notte Estate. Mancano pochi secondi alle 20. Una buona serata da Enrico Pagliarini. Grazie a Valeria Bernardi che si sta occupando della parte tecnica in redazione. Grazie a Valentina Ternullo, Laura Vanossi, Alessandro Schirano. Andrea Ferro collegato da Genova. Andrea, sei ancora sul Ponte San Giorgio? Confermo, a 3 metri da me il Presidente del Consiglio Conte non ha voluto parlare, ha salutato e è appena salito sull'auto con la quale lascerà, diciamo così, in senso contrario, nel senso che in direzione ponente, ma è sulla carreggiata direzione Levante, lascerà il Ponte San Giorgio. Si è attardato, ha voluto parlare a lungo con gli operai e ora si sta avvicinando a noi. Siamo in diretta, non ce la facciamo. Il sindaco e commissario straordinario Bucci, che purtroppo non riusciamo a raggiungere con il nostro microfono, che commenta appunto la giornata di inaugurazione, la cerimonia che ha salutato il nuovo ponte Genova San Giorgio, cerimonia che abbiamo raccontato in questa ora e mezza di collegamento. L'ultima nota che vi do da Genova sono queste luci a LED, 18 pennoni che illuminano il ponte. Anche questa è una soluzione innovativa, e devo dire c'è stata anche una gaffe da parte del Presidente del Consiglio Conte, ha parlato di 43 luci, tante quante sono state le vite nel ponte, in realtà quello era il progetto originario, poi si è deciso per queste 18 luci che ora iniziano a illuminare il ponte, mentre il cielo è sempre grigio, ma ormai si va verso il tramonto sul mare di questa giornata particolare per Genova. Tra poco si accenderanno le luci sull'Amerigo Vespucci che in e si accenderà la lanterna di bianco, rosso e verde. Con questa immagine io vi ringrazio per averci seguito da Genova in questa cronaca della cerimonia dell'inaugurazione di Ponte Genova San Giorgio, e se Enrico non hai nulla da chiedermi io restituirei definitivamente la linea allo studio. Grazie Andrea, buona serata, buon lavoro. E noi vediamo una notizia che è uscita poco fa: l'antitrust ha multato Vodafone, TIM e Wind per rispettivamente 2 milioni di euro, 1,8 e 1,5 milioni per pratiche commerciali scorrette in relazione all'offerta di servizi di roaming passeggeri ai passeggeri delle navi. E chi è stato in nave anche per andare da un punto all'altro dell'Italia, magari dal continente alla Sardegna oppure in Sicilia o qualsiasi altra destinazione, si potrebbe essere accorto che durante la navigazione il cellulare aggancia la rete della nave, e in questo caso venivano applicate delle tariffe che non erano conformi alle norme. Come al solito gli operatori telefonici, se c'è un pertugio, si infilano. E bene ha fatto l'antitrust a dare questa multa a questi operatori. Ricordiamo Vodafone, TIM e Wind, Wind 3, quindi non a tutti gli operatori. Davide Madedo, a proposito di Sardegna, buonasera, collegato con noi da Cagliari. Ciao Davide. Sì, ciao, buonasera a tutti. Dunque, noi ti abbiamo chiamato perché in questi ultimi giorni è scoppiata un'altra, non so se definirla, polemica legata all'isola, la mitica isola di cui abbiamo parlato molto spesso negli ultimi giorni, cioè quella di Budelli. Che cosa sta succedendo? Allora, succede che possiamo dire che è un po' tutto colpa, è un po' tutto legato all'erosione, che è legata a sua volta al cambiamento climatico, ma anche al sovraffollamento. La spiaggia delle Cavaliere si sta rimpicciolendo e quindi il Parco Nazionale di La Maddalena, attraverso il Presidente, ha emanato in seguito ai certificati del CNR, dell'Università di Cagliari, che hanno appunto appurato che la spiaggia si sta riducendo, hanno emanato una ordinanza dove viene regolamentato l'accesso. Quindi alle 10.30 alle 16 e si potranno andare e potranno andarci solamente le imbarcazioni autorizzate dal parco che avevano programmato la stagione estiva. Quindi sono autorizzati i nativi di La Maddalena e i turisti che arrivano solo con barche che hanno appunto il pass. Le altre dovranno rimanere in rada e nessuno potrà raggiungere la spiaggia del Cavaliere. E diciamo che la spiaggia del Cavaliere è la seconda che viene chiusa, perché la prima in isola di Budelli, perché la prima era stata la spiaggia rosa negli anni 80. Perché questo fatto ha creato un po' di perplessità e anche di contestazioni, perché la comunicazione è arrivata un po' troppo tardi. Il presidente del parco, l'ingegner Francesco Fondesu, ci dice che... Allora Davide, ti proviamo a ricontattare perché la comunicazione è un po' disturbata, un po' degradata e speriamo di trovare una condizione migliore sulla linea, magari se riusciamo a fare spostare Davide verso una finestra, a volte funziona. Tra poco invece parleremo anche di una cosa che è successa in Veneto, siamo in provincia di Treviso, a Possagno, ne parleremo tra poco. Adesso dovrebbe essere di nuovo collegato con noi Davide Madonna, no, non è collegato con noi, allora vi anticipo che parleremo di uno spot pubblicitario anche della Barilla che è stato realizzato grazie ad un video che è girato su internet in queste ultime settimane, video che io non avevo visto, ma pare fosse un video di quelli virali che ha fatto molto successo, di due ragazzine che nel periodo in cui non si poteva uscire di casa a causa del Covid-19 hanno pensato di allenarsi e giocare a tennis sul tetto delle loro case, sempre a Genova. Davide, ci sei di nuovo? Sì, ci sono, adesso ci sono. Mi sentite? Ok, sì, ti sentiamo meglio, sì. Ok. Quindi, ricapitolando, su questa spiaggia comunque si può andare? Allora, si può andare. Ci sono 5 barche autorizzate con regolare pass, quindi da parte del Parco Nazionale. Sono circa 80 persone che ci stanno in queste barche e potranno sbarcare dalle 10.30 alle 16. Naturalmente ci sono delle restrizioni perché non si potrà andare nella zona retrodunale, non si può portare via chiaramente la sabbia, perché poi è un fenomeno che si registra ogni estate, nel senso che negli aeroporti vengono bloccati molto spesso turisti che portano via le bottigliette con la sabbia. Però per esempio i bagnanti sono obbligati a rimuovere la sabbia dalla persona, dagli indumenti e dalle calzature, cioè proprio perché si stanno cercando tutte le soluzioni per evitare che l'erosione comunque continui a colpire la spiaggia, perché trattandosi di spiagge di piccole dimensioni rispetto a quelle che possiamo trovare in Toscana o nelle altre regioni, è chiaro che quindi si deve ricorrere ai ripari, soprattutto perché questo... ce lo diceva il presidente dell'ente parco avallata da studi di CNR e dell'Università di Cagliari, che è complice da una parte il cambiamento climatico e dall'altra il sovraffollamento, la spiaggia si rimpicciolisce e quindi si è dovuti ricorrere appunto a soluzioni di questo tipo. Per gli anni a venire loro ipotizzavano per esempio uno sbarco solamente a nuoto, proprio per evitare, per tutelare maggiormente il bene. Certo, oppure vietare completamente lo sbarco. Sì, vietare lo sbarco, o eventualmente chi arriva, arriva a nuoto e quindi rientra in acqua e non porta via niente, perché a quel punto tutto, si lascia tutto in acqua, comunque certo. C'è anche la sabbia che va a finire in acqua. Chiarissimo, chiarissimo. Davide, grazie e buon lavoro, a presto. Buon lavoro. Sono le 20:08, questa è Radio 24, effetto notte estate. Buonasera Vittorio Sgarbi. Che non sentiamo. Buonasera Vittorio Sgarbi. Eccolo qua, buonasera. Allora, vogliamo raccontarvi quello che è accaduto il 31 luglio nella gipsoteca canoviana a Possagno, un piccolo paese in provincia di Treviso, dove sono esposti calchi e gessi di Antonio Canova. Lei ha denunciato quello che è accaduto. Che cosa è accaduto? Ma mi ha telefonato, tra l'altro il giornale non ha reagito con un certo ritardo, perché ho fatto immediatamente un comunicato a 2 ore dall'accadimento, che sembrava improsibile, ma è documentato dalle telecamere che hanno inquadrato questo personaggio, che vorrò vedere lunedì. Ho convocato così l'amministrazione, perciò il presidente del museo, il quale per fare un selfie o una fotografia si è seduto sulla Paolina Bonaparte, sulla più famosa scultura di Canova, di cui si conosce il marmo alla Galleria Borghese e il prototipo in gesso è appunto a Possagno. Una scultura importante che rappresenta una Venere moderna con le fattezze della Paolina Bonaparte, quindi con una attualità rispetto al tema mitologico, ed è una fotografia, un'immagine così famosa che se ne conoscono fotografie di personaggi come Berenson, famoso critico d'arte, che dialogava con lei. Questo idiota, che pare austriaco, perché c'era l'indicazione di un gruppo di 9 austriaci entrati, per fare un selfie si è seduto, tra l'altro, tra i piedi della figura femminile, della bella Paolina, e il terminale del letto, che sono 60 centimetri, quindi si è proprio buttato sopra, perché quando vai a trovare un malato, siedi in punta di materasso e i piedi sono... Lui addirittura, per rompere i piedi, si è dovuto sedere sopra, e questo ovviamente appare inverosimile, ma mi pare documentato nel filmato. Nel video, certo. A questo punto ho chiesto ai giudici di bloccare questo qua in Italia, perché paghi almeno, so cosa posso fare, non è tanto la questione di denaro, che restauro non sarà molto complicato, però l'idea folle di uno che si siede su un'opera d'arte. Sì, sì, certamente. Senta Sgarbi, se riesce a mettere, sistemare il telefono in modo più opportuno, perché non la sentiamo benissimo. Ecco, adesso lo sentiamo molto meglio. Quello che dovevo rivelarvi è che con la tecnica della zanzara, che si collegava con me, avevano deciso dei collegamenti che era meglio viva voce parlando vicino all'altoparlante che non... Quindi ho dovuto ribaltare le vostre richieste. Avete chiesto di farlo senza viva voce, invece è meglio viva voce. Ma adesso la sentiamo bene. Senta, ma quindi non è ancora stato individuato questo personaggio? No, è individuato, nel senso che si è filmato. Non so se l'abbiano identificato sul confine, o comunque immagino che non sarà difficile, dalla prenotazione del gruppo, erano 9 prenotati, di salire all'identità. Sì. Credo che un'indagine semplice di un qualunque bravo carabiniero, poliziotto, ci metta. Quando arriverò tra qualche giorno a Possagno, immagino che sapremo già il nome di questo deficiente. Senta, ma non si è stupito, cioè io mi sono stupito, cioè che uno riesca comunque a sedersi su una opera di questo tipo, su una statua di gesso, senza che nessuno intervenga? Ma il fatto è che il museo ha poche stanze, ma molto affollate. E probabilmente è stato un istante, nel senso che il museo, non per mia volontà, ma prima di me, aveva favorito, diciamo, il meccanismo alla Ferragni, cioè l'idea che chi va a vederlo familiarizzi con le opere facendo fotografie e selfie. Per non censurare questa, diciamo, consuetudine, ho deciso lunedì di proporre una norma che è quella che chiunque voglia fare delle foto deve avvisare e dirlo al custode o ai custodi che sono presenti, perché è chiaro che se lei ha 50 sculture in una stanza non ci vuole molto, con i 3 o 4 anche custodi che vi siano, a fare un gesto che tu non prevedi, perché è più facile prevedere un atto di vandalismo di un pazzo che non una persona normale che si siede in braccio a una scultura, è piuttosto anomalo, non è una cosa che ti viene in mente dall'età scolare in avanti, no? Per cui l'effetto sorpresa è proprio nell'atto, diciamo, di innamoramento o di invasione fisica della scultura, che non è tra gli atti che uno tiene in mente come consuetudine. Chiaro. Senta, le faccio un'ultima domanda. Non si potrebbe pensare a sequestrare i telefonini all'ingresso dei musei, così risolviamo il problema? C'è questo un ristorante, è un'idea rispetto, io conosco un ristorante che ti sequestra il, almeno uno, sì, poi magari ce n'è più di uno, che ti sequestra il telefonino all'ingresso. Dice, se vuoi cenare e da noi... Poteva farlo anche Berlusconi con le oggettine, non ci ha pensato, ma è una strada. L'altra è quella che ho scelto io, visto che il museo ha stimolato a fare fotografie, cioè lo incita il visitatore a dialogare con le sculture, che questo dialogo sia però segnalato, cioè tu quando decidi di farti una foto chiami il custode e dici io adesso la faccio, così il custode sta a vedere e testimone di quello che accade, perché se lo fai in maniera selvaggia può appunto capitare questo, che non era mai capitato, evidentemente nella follia degli uomini c'è anche quello di fare l'amore con una scultura. Comunque questa statua si sistema senza grossi problemi. Sì, sì, il problema del restauro non è difficile, ma se lei la guarda bene in fotografia, visto che è molto nota, si accorge che tra i piedi e il terminale del letto sono almeno 60 centimetri, per cui appare bizzarro uno di proprio volerci andarci in braccio, perché se anche uno si fosse appoggiato a limitare, diciamo, quando vai a trovare una persona malata, ti siedi sul materasso, non sui suoi piedi. I piedi stavano al centro, quindi a me appare bizzarro per quello, perché proprio è uno che si è seduto con un culone sopra le dita che sono non in prossimità dell'orlo della scultura, per cui è molto strano anche questo. Molto chiaro. Grazie a Vittorio Sgarbi, che abbiamo chiamato questa sera in qualità di presidente della Fondazione Antonio Canova, per raccontare questo episodio avvenuto la scorsa settimana nella Gipsoteca Canoviana a Possagno. Siamo in provincia di Treviso. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, ci sono le informazioni sul traffico che abbiamo sospeso un'ora fa per l'inaugurazione del ponte San Giorgio a Genova. Alle 20:15 minuti ci risentiamo tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Promo 24. Chi ha un libretto smart adesso può rendere i propri risparmi dei super risparmi, attivando online l'offerta Super Smart Premium Digital 150 giorni. Chi non ha un libretto smart può aprirlo, attivare l'offerta solo online da app BancoPosta e Poste.it e a scadenza riceverà un tasso di interesse vantaggioso sulla nuova liquidità accantonata sul libretto smart. I buoni e i libretti di cassa depositi e prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane e sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. Effetto notte estate. Sono le 20:18 minuti, l'ultima parte di Effetto notte estate. Buonasera a Ottavio Nava, benvenuto. Buonasera, grazie. Ciao. Ottavio Nava è cofondatore e amministratore delegato di We Are Social, siete un'agenzia creativa, giusto Nava? Esatto, sì, sì, sì. Allora, ti abbiamo invitato perché almeno a me ha colpito molto. Io mi sono un po' emozionato quando ho visto questo video di due ragazzine che hanno incontrato il loro mito, almeno di una, tennista. Allora, ricapitoliamo. C'è stato un video nelle ultime settimane che a me era sfuggito, un video virale di queste due ragazzine che per allenarsi a giocare a tennis nel momento di massima restrizione in cui erano bloccate in casa, avevano scelto il tetto delle loro rispettive case, che non erano nello stesso palazzo, quindi di mezzo c'era una strada, per scambiarsi la palla tennis, giusto? Esatto, sì sì, Vittoria e Carola appunto hanno pubblicato questo video il 18 aprile in pieno lockdown, in cui scambiavano dei colpi di tennis tra due terrazzi. Pare tra l'altro che sia stato il padre, stufo di sentirle palleggiare contro il muro, a consigliare di giocare tra i due tetti, potendo appunto mantenere il distanziamento e avendo una dimensione che era più o meno la distanza, che era più o meno quella appunto di un campo da tennis. Questo video ha fatto il giro del mondo, ha fatto quasi 10 milioni di visualizzazioni su Twitter, insomma è diventato molto famoso, e da lì è nata l'idea, nel senso che con appunto Barilla, che è un cliente con cui abbiamo una relazione da molto tempo, ci siamo detti dobbiamo fare qualcosa. Barilla presidia il tema del tennis, appunto sponsorizzando Federer da diversi anni, e lì è nata l'idea di appunto portare Federer a giocare con loro e sorprenderle, e quindi appunto poi siamo riusciti a concretizzare questa cosa. Adesso ci racconti come avete fatto, perché c'è un particolare che mi ha fatto sorgere alcune domande, cioè come avete fatto a fare in modo che queste due ragazzine non si accorgessero di nulla, e voi avete portato Federer sul tetto delle loro case, loro giocavano, poi le avete intervistate, a un certo punto Federer è sbucato dal nulla. Allora, esatto. Sentiamo una parte dell'audio di questo video che dura alcuni minuti. Io sono Vittoria e ho 13 anni. Io sono Carola, 11 anni. Durante la quarantena abbiamo deciso di provare a palleggiare da un terrazzo all'altro. Ma non pensavamo che questo video potesse avere così tanto successo. Il mio giocatore preferito è Federer. Ciao, Carola, ciao Vittoria. Come stai? Non ci possiamo credere! C'è Federer sul nostro terrazzo. Shall we play it or no? Gioca tennis con noi. Come avete fatto a far sì che non si accorgessero di nulla? Allora, quella è stata effettivamente la parte complicata, anche perché ti puoi immaginare che a finale ligure non sia facilissimo tenere per un mese la notizia appunto dell'arrivo di Federer, però i genitori ci hanno aiutato moltissimo a tenere tutto segreto e loro non sapevano assolutamente nulla. Infatti credo che la cosa bella del video, per chi la vede, è cogliere questa spontanea, genuina emozione che le ragazze hanno quando lo vedono, ma appunto una retroscena da backstage è che in realtà anche Federer era super emozionato, cioè lui stesso ha raccontato che nel momento in cui stava per entrare dalle ragazze, vedendole, immaginandosi il momento, si è molto emozionato. Quindi sì, è stato complicato, ma ce l'abbiamo fatta, e questo ovviamente ha reso il video probabilmente appunto spontaneo, genuino, emozionante per chi lo vede. E adesso questo, intanto chiedo scusa, prima io ho detto Genova, invece è finale ligure. Sì, a finale, okay. Finale ligure, sì. E adesso questo video che cosa, cioè, rimane su internet o lo utilizzate per una campagna pubblicitaria, per che cosa? Ma no, allora, vedi, il bello è proprio questo, cioè è un contenuto di intrattenimento che è diventato campagna pubblicitaria. Ovviamente l'idea era di valorizzare al massimo questo momento, sorprendere le fan utilizzando Roger Federer, ma anche comunicare il messaggio che Barilla porta avanti ormai da anni, questo pasta brings people together, cioè la tradizione italiana che riesce a mettere l'emozione delle persone insieme a tavola, e quindi è diventato, se vuoi, comunque è nato come con l'idea di essere un messaggio pubblicitario, ma non è uno spot per come classicamente lo si intende. Forse sì, perché dura quanti minuti dura? Dura quasi 4 minuti, sì, è un minutaggio piuttosto lungo, che su adesso sta facendo tutto il suo corso online, ha fatto 1 milione di visualizzazioni, ne ha parlato chiunque, ne ha parlato India Today, e per farne un esempio, e CBS America Today, cioè sta facendo veramente il giro del mondo e continua a crescere da un punto di vista di visualizzazione, di successo anche appunto nei vari notiziari per tutto il mondo che sta avendo. Avete avuto dei problemi per farvi dare l'autorizzazione a questo punto, però queste ragazzine erano già famose in giro per il mondo, quindi poco avete aggiunto voi? No, sì, da questo punto di vista diciamo che abbiamo creato una piattaforma per chiudere il cerchio, nel senso che il loro video è diventato famoso e grazie a questa cosa del match con Federer si è chiuso il cerchio. Poi tra l'altro Federer ha chiamato Nadal e loro andranno alla Nadal Academy quest'estate, per cui avranno anche la possibilità di allenarsi e crescere come tenniste. E quindi sì, fondamentalmente, sì, ripeto, abbiamo un po' creato le condizioni perché si chiudesse il cerchio che loro stessi avevano iniziato. Sì, adesso una cosa che non so se lo abbiamo spiegato a sufficienza e se è chiaro, cioè a questo punto Federer, una volta che avete creato l'effetto sorpresa, ha giocato a tennis con le due ragazzine da un tetto all'altro. Esatto, ha fatto proprio una partitella. Dei colpi, uno gli è anche caduto su una macchina sotto, infatti sì. Si sente lui che dice into the machine. Sì. Esatto. Senti, ti faccio un'ultima domanda, poi ci salutiamo. Io noto, mi piace molto il mondo della pubblicità, a volte mi perdo le ore a guardare, forse le ore no, però guardo molti spot pubblicitari e noto che una cosa che manca negli ultimi anni è la creatività. In questo caso sono state le due ragazzine, poi voi ci avete aggiunto sicuramente l'idea di Federer, però vi hanno dato una bella idea, spontaneamente. Sì, oggi molto sta in alcuni casi a cogliere i segnali giusti. Noi portiamo avanti un concetto appunto di redazione creativa, quindi l'idea di comprendere quali sono dei segnali che magari avvengono anche spontaneamente online, che possono essere valorizzati al massimo, su cui è possibile costruire una narrazione o una esperienza di intrattenimento come in questo caso. Permettimi solo di citare, scusami, anche la casa di produzione, perché mi sembra oltre che giusto doveroso, che è BRV Filmland, perché ovviamente sono con noi a bordo di questa cosa nell'aver realizzato un video in montaggio che poi rende giustizia all'esperienza emotiva che le ragazze hanno avuto insieme a Roger. Comunque concordi con me che c'è poca creatività negli ultimi anni nel mondo della pubblicità? No, non sono d'accordo. Penso che si osservi molto la pubblicità intesa come lo spot, il commercial, che ha sempre meno un ruolo centrale nella comunicazione di marketing, e invece ci sono un sacco di cose appunto online o esperienze ibride tra media che sono molto interessanti. Quindi credo che la creatività degli spot TV in molti casi sia un po' decresciuta, perché è semplicemente un mezzo meno di frontiera in cui succedono un po' meno le cose innovative, ecco. Quindi forse la spiegherei così, ecco, piuttosto che dire che c'è un calo di creatività. Anzi, negli ultimi anni l'industria italiana si è molto ben comportata anche a livello di riconoscimenti internazionali e award da un punto di vista creativo, quindi secondo me è più una questione di punto di osservazione rispetto alla tipologia di comunicazione che si valuta. Ok, adesso cercherò di cambiare punto di osservazione, Ottavio. Grazie per essere stato con noi. Su internet. Ciao, vabbè, sono sempre su internet. Grazie, ciao, Ottavio, grazie. Buona serata, buon lavoro, buona cena, buon quello che vuoi. Sono le 20:26 minuti. Grazie a Valeria Bernardi che si è occupata della parte tecnica, Valentina Ternullo, Laura Vanossi e Alessandro Schirano che mi hanno aiutato in redazione per realizzare questa puntata di Effetto Notte Estate. Domani sera torna dalla sua Genova, e non potevamo non lasciarlo a Genova per questa giornata, Andrea Ferro, per condurre le prossime puntate di questo programma. Io vi auguro una buona serata e un buon ascolto con i nostri programmi.